Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarti. Sì, stiamo aspettando i collegamenti con le sale dei DJ. Ci abbiamo DJ Gale qua, attenzione, ma colpo di schiena. Chi abbiamo qua? Chi abbiamo qua? Bea! Woo! Questo Bea Woo è tutto un programma. È un'esplosione. Esatto. È un'esplosione di freschezza. Ricordiamo che è una ragazza ripiena? No. Sono brillante, esplosiva. Scintillante. Infatti ci sono le scintille in parte, sì, lei, Brilla, brilla la scintilla, brilla in fondo al mare. Sta facendo finta. Ah, ho capito. Vai avanti tu, Bea. Va bene così. Fidatevi sulla parola. Di dove sei, Bea? Sono di Capriano del Colle. Capriano del Colle. Un piccolo paesino nella Bassa. Esatto. Wow. Bassa bresciana? Sì. Bresciana doc. È bresciana doc. Matematico Watson. Se tu parli con lei, viene da dire matematico Watson. Sì. Perché? Te ne intendi di matematica? Sei bravo con i numeri? Sì. Lui dà spesso i numeri, Ci piace. Sì. Fammi un esempio. No. Allora, dimmi. Sì. Come si disegna una funzione esponenziale? Come si disegna una funzione esponenziale? Il quesito anche per gli amici a casa, chi no, vuole. Certo. Facciamo partire il tempo? Abbiamo 2 mesi di tempo per dare una risposta? Professoressa, non ho studiato, non sono preparato. Mi manda la nota? No, dai, hai degli occhioni dolci. Porco Giuda. No. Ce lo puoi spiegare, Bea? È una funzione che praticamente va crescendo, no? E quindi parte piano, e poi a un certo punto sale e cresce esponenzialmente, no? Beh, corrisponde alla vita sessuale di Mr. Dave, praticamente. Bastava domandare così che te la rispondeva subito. Sandrino. Cioè, ti rispondeva subito se gliela ponevi così la cosa. Siamo in fascia protetta? Siamo fuori onda. Volevo proteggere. Sono come le serate qua al convento. Partono comunque tranquille, con un'ottima cena. Poi arriva Sandrino. E poi il botto con musica e tanto, tanto divertimento. Hai sentito il botto, Bea? Perché è la tua prima serata qui da noi? Sì, esatto, e questa è la sensazione che ho provato io stasera. La funzione esponenziale. Sempre meglio, diciamo, no? Quindi tu da cliente per la tua prima serata hai provato la funzione esponenziale. Esatto. Ma sì. l'abbiamo visto anche noi, perché lei prima era timida. Ma io sono sempre così. Cioè, poi parto piano e poi come un diesel, poi mi carico e esplodo, faccio scintille. Di che segno sei? Topa. Bilancia. Pensavo farfallina. Mannaggia, non c'è questo segno. Però parliamo della tua farfallina. Mia farfallina. Perché ci chiedevamo perché hai scelto proprio la farfallina come tatuaggio. Che è salita. Che è salita, tra l'altro, anche esponenziale. Farfallina esponenziale. Era partita bassa, però poi adesso è superato anche le colline. Ok. È un po' come me, insomma, un simbolo di libertà, leggerezza. Perché tu ami la libertà, la leggerezza. Sì. Quindi per gli amici a casa sei single o fidanzata? Sono felicemente single, anche perché quello che sarà il mio ragazzo dovrà stupirmi più della mia libertà. È vero, ricordiamolo, grande frase, ti dovrà stupire più della tua libertà. Questa qua, esatto. Mamma me la segno. La segni? Segnatela, perché meglio delle frasi sui baci perugina. Esatto. Tra l'altro tutti che stanno prendendo appunti qua. Frasi sotto i post di Instagram. Le frasi di Beatrice, l'angolo di Beatrice. Scintillante. Aspetta che ogni volta che diciamo Beatrice dobbiamo fare anche il citofono di casa. Tu suoni, Beatrice? Yeah, sono io. Il postino di Amazon. Beatrice. È bella questa cosa. Quindi la sensazione che hai avuto al convento è stata proprio questa. Sì, è un posto veramente fantastico e fino adesso mi sono divertita tantissimo. Ci ritornerò sicuramente. Mangiare, come si mangia? Molto bene, ho mangiato la pizza. Sì. E poi l'antipasto che ci hanno servito all'inizio, favoloso. quella. Tutto bene, cioè. Sì, non posso lamentarmi, veramente. Neanche di Mr. Dave? Di nessuno. Ah, neanche di Mr. Dave. Niente da fare. Niente. Della DJ. La DJ, la mia amica, è bravissima, anche lei. Forse. Non dovevi dire che no, tua amica. Mannaggia. No, è veramente brava, sì. Ricordiamo DJ Martin. Martin. Giusto? Vai Martin. Avevi qualcosa da chiederle, Mr. Dave? No, in questo momento sono assorto nei tuoi pensieri? Nei miei pensieri, sì. È una cosa alla Vasco Rossi, in pratica? Esatto. Ma esatto. Ti ho visto che si è vestito un po' svogliatamente lui, eh? Sì. Al buio? Sì. No, all'alba chiara. Ah. Esatto. Invece tu come sei vestita? Racconta ai nostri amici a casa. Oddio, allora. Fagli sognare. In realtà un tubino nero con un po' di piume, stile anni 20, lontanamente. E poi avevo una bellissima maschera nera. Sì. Ma l'ho lasciata al tavolo. Tipo scambio di coppia? Eyes Wide Shut. Non conosco. Non conosce. Brava, non conosce. Quindi. Bravissima. Scarpe? Scarpe nero ovviamente col tacco. Tacco e numero? Un filino d'oro. Sarà 10, dai, sì. Ok, va bene. Così gli amici ballare. A casa si fanno un'idea generale, ok. Un'idea. Lasciamo spazio all'immaginazione. Mora riccia e occhi marroni. Fantastici. E quindi comunque uno per conquistare. Caviglia sensuale. Pure? Caviglia sensuale. Me lo segno. Te lo segni, okay. Invece uno per stupirti, cioè per conquistarti ti deve stupire, semplicemente. Certo, mi deve far ridere, deve essere divertente, deve essere un po' frizzante e matto come me. Ah, quindi tra uno bello ma pacifico, preferisci uno meno bello ma più frizzante? Sì, dai, certo, la bellezza la apprezziamo comunque sempre, né? Però va bene, accettiamo. Sandrino, questa non è una donna scontata. Questa per portarla fuori ti costa un sacco di soldi. Provare per credere. No, non è scontato, gli piacciono le percentuali, queste cose qui. Anche. Eh sì, Tu, poi con i numeri tu ci sei pari. Ma meno di lei, perché la cosa esponenziale non la sapevo. Non la sapevo. Ricordiamo che stai studiando matematica. Perché, sì, ma più che altro perché i tassi di interesse non sono così. Non sono molto di interesse. Effettivamente. Passioni di Beatrice? Passioni, tiro con l'arco. Tiro con l'arco. Perché ti piace lanciare le frecciate alle persone? Sì, mi piace lanciare tante frecciatine ai ragazzi. Ah, sei un po' sarcastica a tempo. Certo, mi piace l'ironia. Ah, quindi tiri... Ma sei anche autoironica? Certo, bisogna essere nella vita, sennò è una noia mortale. Moto ironica? Anche auto e moto ironica. E vespa ironica, tutto. Tutto. Bici ironica. Qualsiasi cosa. Qualsiasi mezzo di trasporto ironico. Sì. Ah, fantastica, quindi sei una che tira le frecciate. Quindi sì. C'è Iron Man e c'è Iron Girl. Iron Girl. Sentite la voce, rifalla. Iron Girl. Cioè, perché è passata la musica nel momento giusto. È perfetto. Cioè, sembrava fatto apposta. Però, esatto. C'è stato una cosa esponenziale anche qua. È andata. Possiamo salutarla adesso? Cosa dici? La musica? No, la Beatrice. È andata. Se no svegliamo troppo di lei. No, dai. Teniamo qualche piccolo segreto nel cassetto. Ce l'hai qualche segreto? Certo, qualche asso nella manica. Anche, hai l'asso nella manica? Se c'è un tubino, se c'hai. Esatto, non c'è la manica stasera. Ma sì, da qualche parte lo infilo. Infilo tutto, da qualche parte ci sta. Ok. E lo si... Stai fermo. Io, okay. E, si alza qualcosa? L'effetto esponenziale. Esatto. E lo scheletro nell'armadio ce l'hai? No, non hai scheletro. Sono una donna pulita e completa. E l'indice di gradimento sta salendo? Sta salendo esponenzialmente. Esponenzialmente, tra l'altro. Va bene, dai. Ok, 10 minuti con la nostra Bea l'abbiamo passati. È stato un piacere. Sono già passati, vedi. Ma non vola il tempo con me. Esatto. Cioè, quando ti trovi bene. Vola con quanto fiato in gola. Il buio? Si innamora. Non è sì, boh, ti consola. So il ritmo. Vabbè, comunque la notte, basta. Lo sappiamo. Ok, che è andata. Quella. Vuoi salutare qualcuno? Voglio salutare tutti quelli che mi vogliono bene in fondo. In fondo? In fondo. In fondo. Sono in tanti secondo te? Magari pochi, ma buoni. Chi lo sa? E perché ti devono voler bene? chi è che non vuole bene a Bea? Ah già, è vero, basta. Effettivamente. Va bene, l'ultima domanda: un pregio e un difetto di Bea? Allora, partiamo prima dal difetto. Un difetto? Proprio un difetto di quelli... Gli puzzano i piedi. Adesso. Così. Magari a volte no. Sulle decisioni banali sono un po' indeciso. Su quelle banali? Sì, su quelle banali. Ah. Sì. Del tipo, dove vuoi andare a cena? Boh, non lo so, decidi tu. Ah, non okay. Mi piace prendere queste decisioni. No, sono banali, è però giusto. Ora che so che c'è il convento, verrò sempre qua. Ah, ok, vabbè, quindi hai già superato il problema della decisione. Esatto. Giusto? E un pregio, sono sincera, diretta, e quello che penso lo dico. Ma è anche un filino l'R moscia, possibile? Ahimè, sì. No, perché qua con l'R moscia noi abbiamo... Questo non è un difetto. Un certo feeling con l'R moscia. Questo non è un difetto. No? È particolare, boh, mi sento strana. Mi chiedono sempre, ripeti, ramarro marrone. E io, no, non voglio. È verde, quindi no. Ripeti, ramarro marrone, merda. Merda. La R già. Si può dire, non è pubblicità. Okay. Perfetto, quindi abbiamo capito anche questa cosa. Tu ti vedo ipnotizzato? Stai guardando... Sono preso dalle mie storie qua un attimino. No, io, guarda, io andrebbe avanti... All'infinito però... Dobbiamo finire. Però dobbiamo finire questo. Prima o poi. Sì, perché altrimenti non è esponenziale. Esatto. Esatto, dopo torna giù la parabola, no? In realtà va sempre all'infinito, quindi... Quindi... Non finisce mai. Ok, allora mandiamo una buonanotte in versione Bea però. Ok. Va bene. Dai, allora, vai te. Buonanotte a tutti e sognate come Bea. State ascoltando Ristoradio Convento, la web radio del convento di Leonato del Garda.